reagi quando fai cose che le altre non fanno. È lunedì sera e bendi come capodanno. Bevi 100 shot ma reggi bene l'alcol. E mardi di malestar fai squat con il cacco. Loro slacciano bottoni se fa caldo, quando lo fai tu invece suda qualcun altro. Arrostiscono se al cinema c'è una scena di sesso, tu invece dici che puoi fare meglio. Loro a casa con il tipo, con la tuta, con le felpe, fanno foto con roba aderente per i like. Loro hanno una visa che usano raramente, tu hai reggiseno solo che non usi mai. Loro seguono la moda, tu la fai. Loro Miu Miu, Jimmy Choo, tu mini con le Nike. E se rimango in boxer, te ne fotti se non sono Calvin Klein. Mi piace quando fai certe cose, certe cose. Quando fai certe cose, mi piace quando fai certe cose, certe cose. Quando fai certe cose, mi piace quando fai certe cose. I'm